Berlusconi rinnova l'amicizia con Mosca nel suo interesse personale, poi dice anche i mondiali di calcio in Russia sono merito nostro. Wikileaks oscurato da un server americano ricompare in Svizzera e guerra a colpi di hacker. Un'Italia spenta e senza desideri dal Censis, la fotografia 2010. E la Germania riparte nel 2010, PIL record a più 3,6%. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Vi abbiamo fatto sentire in diretta alcuni momenti della conferenza stampa che ha concluso a Sochi sul Mar Nero il vertice italo-russo, un appuntamento importante che arriva nel pieno della bufera delle rivelazioni del sito Wikileaks. Il sito di Julian Assange ha diffuso dispacci in cui si ventilano interessi personali ed economici del premier Berlusconi nell'amicizia con la Federazione Russa. E allora, parlando a fianco al presidente Medvedev, Berlusconi si è difeso così. Ma io credo che si tratti di un grave infortunio che è occorso. Erano tutte comunicazioni da parte delle ambasciate ai loro uffici centrali. Molto è dovuto al fatto che i funzionari che operano localmente vogliono far vedere di essere informati, di avere rapporti ai più alti livelli, e molto spesso prendono le notizie semplicemente dalla stampa e le trasformano in note riservate. Quindi credo che questo debba essere chiaro a tutti, che non si debbano dare soverchia importanza a certi giudizi che sono certamente fastidiosi perché poi innescano commenti della stampa, ma che alla fine io mi auguro non possano portare a cambiamenti di sympathos tra i paesi interessati. Così Berlusconi, molti altri temi toccati nel corso del vertice, nel corso della conferenza stampa. Il capo del Cremlino, Dmitry Medvedev, ha detto di contare sul contributo italiano alla modernizzazione dell'economia russa, diventato, ha detto, il dossier principale della sua presidenza. Stiamo avviando collaborazioni in tutta una nuova serie di direzioni, compresa la modernizzazione. La Russia è interessata, ha detto Medvedev, alla partecipazione di tutti i paesi dell'Unione Europea alla modernizzazione della sua economia. E il rapporto è anche con l'Italia. Berlusconi e Medvedev hanno anche scherzato nel corso della lunga conferenza stampa, hanno parlato anche di calcio e dell'assegnazione ieri dei mondiali 2018 alla Russia. Per quanto riguarda la vittoria e l'aggiudicazione alla Federazione Russa per i campionati di calcio del 2018, io mi sono congratulato con il Presidente, ma devo dire che una piccola parte di questo spetta anche a noi, perché con i nostri rappresentanti noi abbiamo lavorato non soltanto portando il nostro voto, ma anche cercando di convincere gli amici che avevamo, e quindi siamo assolutamente contenti e fieri di questo risultato. Per quanto riguarda il calcio, chi vincerà tra la Federazione Russa e la Nazionale Italiana, io le dico la mia opinione sul calcio da presidente di una società di calcio che è la prima al mondo per il numero dei trofei internazionali vinti. Nel calcio il 50% è tecnica e qualità. Il 50% è arbitri e fortuna. Quindi non lo so, nessuno può dire come andrà quella partita. Calcio a parte, il vertice italo-russo non era solo un appuntamento politico, al centro, dicevamo, anche numerosi accordi economici. Allora torniamo a Sochi. Wikileaks è stato un grave infortunio, lo ha detto a Krasnaya Poliana tra le montagne di Sochi Silvio Berlusconi, cercando però di concentrarsi sulla ragione che lo ha portato qui, al settimo vertice intergovernativo tra Italia e Russia. Un vertice che ha visto la firma di alcuni accordi politici ed economici. Forse uno dei più importanti è il permesso di transito ferroviario sul territorio russo, che la Russia accorderà ad armamenti e munizioni destinate alle truppe italiane in Afghanistan. Gli altri accordi riguardano il protocollo di attuazione della accordo di riammissione tra la Comunità Europea e la Federazione Russa, una dichiarazione congiunta per realizzare il partenariato bilaterale per la modernizzazione, uno dei temi che sta più a cuore al Presidente Medvedev. Ci sarà poi un accordo per la semplificazione delle norme di ingresso nella Federazione Russa per i membri degli equipaggi di velivoli di compagnie aeree, lo stesso accordo rispettivamente per le compagnie aeree russe in Italia. Infine è stato firmato un accordo di collaborazione nell'ambito dello sviluppo delle piccole e medie imprese tra il gruppo bancario italiano italiano UbiBanca e la Svizzera Econombank, la banca per lo sviluppo e per l'attività economica estera. Un accordo quadro sulla collaborazione postale tra Italia e Russia, con le poste italiane e il Elsag datamato del gruppo Finmeccanica e le poste russe, e infine un memorandum d'intenti sulla collaborazione nel campo dell'energia elettrica tra Enel e la società per azioni Interrao. Con questo si conclude la parte ufficiale del vertice di Krasnaya Poliana, che continua con un pranzo a tre tra Silvio Berlusconi, Medvedev e il primo ministro Vladimir Putin, che è appena arrivato. Antonella Scott, Radio 24 sulle 24 ore, Krasnaya Poliana. E dunque torneremo ancora a Sochi per sentire come andrà anche l'incontro tra Berlusconi e Putin. Intanto però in queste ore è sotto attacco degli hacker il sito Wikileaks. Lo stesso Pentagono aveva ammesso di averne assunti appositamente. È scomparso da internet per quasi 6 ore, non è stato comunque un blackout completo quello di Wikileaks. Dalle 4 del mattino, ora italiana, il dominio originario wikileaks.org è stato rimosso, rimanendo accessibile soltanto attraverso un indirizzo IP. La decisione di oscurarlo è stata presa dal provider americano che lo ospitava, everydns.net, perché il sito di Julian Assange era finito nelle ultime ore nel mirino di una massiccia offensiva di pirateria informatica, attacchi che rischiavano di compromettere l'accesso agli altri 500.000 siti web ospitati dal provider. Il dominio wikileaks.org è stato ucciso dagli Stati Uniti, ha denunciato su Twitter la squadra di Assange, che comunque ha ripreso a diffondere i documenti riservati della diplomazia americana passando per la Svizzera attraverso un nuovo indirizzo internet wikileaks.ch. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Berlusconi ha annunciato che in giornata da Sochi parlerà anche di politica italiana. In attesa a Roma a tenere banco sono le prove di Terzo Polo. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, il Terzo Polo prende forma, ieri l'annuncio della mozione di sfiducia, oggi la sua formalizzazione a firma di UDC, Future Libertà, PD, Rutelli, MPA, Libdem e due rappresentanti del gruppo misto, una nuova area di influenza politica, questa che chiede al Premier di dimettersi per poter agevolare l'uscita del Paese dallo stallo in cui si trova, ascoltiamo su questo buttiglione UDC. Se Berlusconi va a prendere dimissioni adesso, risparmia al Paese 10 giorni di attesa e anche uno scontro lacerante che ci vorrà un po' di tempo per ricucire. Terzo Polo più Partito Democratico ed Italia dei Valori arriverebbero così a Montecitorio a quota 317, avremo la maggioranza assoluta, dicono i finiani. Dal governo a replicare il ministro Bondi, coordinatore tra l'altro del Popolo della Libertà. Il Terzo Polo, spiega Bondi, è una ammucchiata di reduci della vecchia politica che non guarda avanti ma al passato, una ammucchiata indifferente alle sorti del nostro paese. Insolitamente cauta la Lega, secondo indiscrezioni Bossi punterebbe ad un compromesso confini che permette il prosieguo della legislatura e l'approvazione definitiva del federalismo. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. L'economia, il Portogallo probabilmente finirà in recessione nel 2011 per via degli effetti del piano di austerità varato dal governo di Lisbona e la previsione dell'agenzia di rating Standard & Poor's, che aveva già messo sotto osservazione il Portogallo. A crescere e a livelli record è invece la Germania. L'economia tedesca è in piena ripresa dopo il crollo del 2009. Il prodotto interno lordo potrebbe crescere del 3,6% nel 2010, secondo le ultime stime della Bundesbank pubblicate oggi. Sono previsioni migliori di quelle del governo, che punta a una crescita del 3,4%. Il dato è positivo, ma riflette un recupero dalla recessione del 2009 più che nuova crescita. Ciò detto, la Germania sta approfittando della proiezione internazionale delle sue aziende che stanno modernizzando i grandi mercati emergenti. Anche la domanda interna sta dando il suo contributo, non solo attraverso una ripresa dei consumi, ma grazie anche a un aumento degli investimenti, soprattutto nei lavori pubblici. La Bundesbank prevede che il deficit pubblico tedesco scenda al 2,5% del prodotto interno lordo nel 2011, un obiettivo che, se si concretizzasse, sarebbe un campanello d'allarme politico per i molti paesi ancora alle prese con un deficit eccessivo. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Seconda tranche dell'operazione anti-andrangheta al nord, la Guardia di Finanza tra Milano e Reggio ha bloccato questa mattina beni per 15 milioni di euro. A breve i PM hanno fatto sapere che chiederanno il processo corrito immediato per 180 affiliati arrestati a luglio. Le infiltrazioni dell''Ndrangheta al nord, ad occuparsene è anche un libro inchiesta. Abbiamo aperto un fascicolo per accertare la veridicità delle affermazioni del pentito. Con queste parole Giancarlo Capaldo, capo della direzione distrettuale antimafia di Roma, ha salutato il libro Metastasi, edito da Chiare Lettere e scritto da Claudio Antonelli e Gianluigi Nuzzi, presentato a Milano. Il libro si articola infatti attorno alle confessioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Di Bella e racconta le infiltrazioni dell''Ndrangheta tra nord e sud, paragonando la pianura padana all'Aspromonti in un appassionante e sconvolgente viaggio tra sangue, soldi e politica. Ora c'è grande attesa attorno alla rivelazione madre del pentito, quella sulla decisione della malavita nel 1990 di sostenere l'ascesa di un dirigente della Lega Nord di Lecco fino a importanti incarichi di governo, dirigente che nel libro è coperto dall'anonimato ma sulla cui identità la magistratura può ora alzare un velo. Ciò condina da Radio Corp e Radio 24 Il Sole 24 Ore. Ormai i crolli sono quotidiani, a Pompei è precipitato un nuovo muro, stavolta lungo il peristilio della casa di Trebbio Valente, a circa 20 metri dalla Schola Armaturarum. Si tratta di una parete di 3 metri, stavolta più importante delle precedenti, e anche in questo caso un custode aveva segnalato il pericolo. La scomparsa di Yara Gambirasio nel Bergamasco questa mattina è stato trovato un giubbino simile a quello che indossava la ragazza prima della sua scomparsa venerdì scorso. È stato trovato vicino allo svincolo tra Brembate e Mapello e sarebbe stato lanciato da un'auto in transito. Al giubbino i carabinieri sono arrivati stamattina verso le 10.30 su segnalazione di una donna che stava passando di lì con la sua auto contemporaneamente alla macchina da cui è stato gettato il sacchetto. Ieri sera la prima dell'Opera di Roma, diretta dal maestro Riccardo Muti, lo ha intervistato Elisabetta Fiorito. Il pubblico, quindi gli italiani, hanno bisogno di spiritualità e di commozione, al di là di tutte i drammi, le tragedie, le difficoltà di carattere sociale, di carattere politico. Gli italiani vogliono ritrovare la loro identità. Così gli italiani secondo Riccardo Muti. Tra poco l'intervista esclusiva a Radio 24 in uno speciale. Italia senza più legge né desiderio, così la descrive invece il Censis. Ve lo raccontiamo tra poco, subito dopo il traffico. Prima però le agenzie hanno battuto in questo istante una notizia dell'ultima ora. Ve la diamo così. Come è stata battuta la trattativa sul piano per Mirafiori è finita. Per l'azienda non esistono le condizioni per raggiungere un'intesa. Le 13:16 minuti, le notizie di GR24, saltato il tavolo per Mirafiori, la Fiat, non ci sono condizioni per un'intesa. Berlusconi rinnova l'amicizia con Mosca, nessun interesse personale, poi dice anche i mondiali di calcio in Russia sono merito nostro. Muti concede il bis, gli italiani ne hanno bisogno, dice a Radio 24, ieri la prima all'Opera di Roma, tra poco il nostro speciale. E intanto noi ripartiamo dal Censis che anche quest'anno racconta l'Italia, un'Italia appiattita che stenta a ripartire senza più legge né desiderio, e l'analisi impietosa del 44esimo rapporto sulla situazione sociale del paese. Abbiamo resistito ai mesi più drammatici della crisi, dice il Censis, ma con una evidente fatica del vivere. Giuseppe De Rita al microfono di Teresa Trillò. In Italia non ci si preoccupa mai troppo, fa parte della nostra serenità di spirito, fa parte della nostra consapevolezza di avere un modello dentro solido, un modello che gioca sulla piccola impresa, sul lavoro sommerso, sul localismo, sulla patrimonializzazione. L'abbiamo visto in questi 10 anni, le tante paure sono state superate. Adesso il problema non è tanto di avere paura, preoccupazione per il futuro, perché tutto sommato al massimo abbiamo paura di avere un po' più fatica di vivere, ma non pensiamo a tracollo. Il fatto vero è che non abbiamo vigore per il futuro, non abbiamo la voglia di rigiocarci tutto. Adesso questo nostro paese in fondo non ha più uno spessore intellettuale forte, in parte perché si è appiattita anche intellettualmente, diciamoci la verità, ma in parte perché non funziona in ciascuno di noi, se ci pensiamo bene, e nella società nel suo complesso, quella grande modulazione del rapporto fra desiderio e legge che ha fatto l'inconscio individuale e l'inconscio collettivo. E dall'altra parte non funziona neppure il desiderio, perché il desiderio siamo tutti appagati, addirittura i nostri figli ricevono regali che non hanno mai desiderato, giocattoli che non hanno mai desiderato, ma tutti noi abbiamo il settimo telefonino mentre abbiamo desiderato solo il primo. Quali sono le leve che bisognerebbe muovere per riattivare questo vigore? Che non c'è un problema di mettere insieme misure. Le misure che abbiamo visto non funzionano. C'è da mettere insieme una psicologia collettiva. Noi diciamo tornare a desiderare. Desiderate quello che gli altri non vi offrono. Il meccanismo della crisi italiana è molto più sociale che economico. L'8,9% degli immigrati che vivono nel nostro paese ha un'ottima conoscenza della lingua italiana, il 43% sufficiente, solo il 15% insufficiente, insomma la stragrande maggioranza degli stranieri se la cava con la nostra lingua. Anche questo emerge dall'indagine del Censis, anche in vista del test di italiano che scatterà dal 9 dicembre. E intanto alle comunali di Milano ci sarà anche una lista di stranieri, non siamo la lista di Allah, dicono, ma a guidarla c'è il presidente del Centro Islamico di Milano. Così al microfono di Alessandro Mila, Sari Abdel Hamid, candidato sindaco a Milano con la lista Milano Nuova. Noi insistiamo se questa è una lista civica laica, non religiosa, eppure continuano a chiamarci lista islamica, lista di Allah. Comunque è un pegno che dobbiamo pagare. Una cosa che mi ha colpito è questa: c'è nel simbolo della lista civica il Duomo. Il Duomo di Milano è il simbolo di Milano per eccellenza, una costruzione che è durata più di 500 anni e rappresenta, diciamo, l'anima di Milano. Non c'è niente di, non ha niente, diciamo, di religioso, è solo un simbolo. Io ho scelto il Duomo anche per sfatare quella, diciamo, leggenda che dice che è una lista islamica. La notizia ve l'abbiamo data in diretta, saltato il tavolo di Mirafiori, secondo la Fiat non ci sono le condizioni per un'intesa, emergono ora i primi particolari, è stata la Fiat a decidere di chiudere il confronto con i sindacati, secondo il Lingotto non ci sarebbero condizioni per realizzare investimenti, i sindacati avevano chiesto di riprendere il confronto tra qualche giorno per poter valutare complessivamente le proposte dell'azienda, ma la Fiat ha detto no. Queste le ultime notizie, naturalmente vi terremo aggiornati nel corso del pomeriggio. Ora però parliamo d'altro, il tradimento è nei geni, almeno secondo una ricerca americana. Il più formidabile strumento di salvezza e anche di autoassoluzione, l'alibi scientifico, che decreta dopo incessanti e scrupolose analisi di laboratorio la colpa è del gene. Un gene che nella sua variante DRD4 dal nome dice poco, ma nei fatti predispone al tradimento sessuale. Lo certifica un gruppo di scienziati della State University di New York che ha condotto una ricerca sul DNA e sulla storia sessuale di 181 giovani. Risultato: quelli con la suddetta variante del gene avevano il doppio di probabilità di concedere una scappatella rispetto agli altri. La motivazione di tale comportamento sembra derivare, secondo i ricercatori, da un sistema di piacere e ricompensa che garantisce un copioso afflusso di dopamina. Crolla dunque un altro pezzetto del sito ormai archeologico della nostra certezza di percepirci come esseri liberi e responsabili di agire nel bene e nel male, anche per quel che riguarda le distrazioni galeotte. Ma gli studiosi, bontà loro, specificano prudenti, onde evitare derive libertine e magari preventivi test del DNA tra chi comincia una relazione, che tale condizione biologica non deve essere considerata una scusante ai propri comportamenti. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Io vi lascio con lo speciale dedicato alla prima dell'opera ieri a Roma, un'intervista esclusiva di Radio 24 al maestro Riccardo Muti. GR 24 torna alle 14 in regia Peter Bescapè. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.